Nella primavera del 1926, a Pasqua, i Clément traslocarono nella portineria completamente rimessa a nuovo, che era stata occupata per 40 anni dalla vecchia signora Lutz. Colpita dal vero limite d'età, aveva 78 anni, la signora Lutz era stata amabilmente messa alla porta dalla provvidenza urbana, proprietaria di buona parte di Rue de la Mare. Con molta urbanità, è proprio il caso di dirlo, la provvidenza si era assunta le spese del rimpatrio della vecchia signora nel natio villaggio lorenese, che sarebbe stata felice di ritrovare, tornato felicemente a essere francese, come aveva sottolineato il signor Bonnet nel suo discorsetto d'addio, che aveva tenuto a scrivere da solo e a pronunciare di persona il nome di quelli che chiamava gli occupanti della casa. Una piccola cerimonia si era svolta nella stanza da pranzo, camera da letto dei Bonnet, e bisogna dire che i preliminari e lo svolgimento della festa erano stati interamente ideati dal signor Bonnet, il quale aveva fatto le cose in maniera molto burocratica, volendo evitare di entrare in relazione diretta con gli occupanti, tra virgolette. Sacrificando le ore di lavoro, aveva redatto appena una convocazione che poi aveva pregato la collega, signorina Bouron, di battere cortesemente a macchina su carta intestata del comune del 20° distretto, fregiato del timbro, servizio del catasto. Il testo era così concepito. Parigi, 13 aprile 1926. La nostra brava signora Lutz ci lascia. Vi propongo di esprimerle il nostro più sincero rammarico. La riunione avrà luogo il 19 aprile alle 19 precise in casa dei signori Bonnet, primo piano a sinistra, allo scopo di evitare troppe scale alle sue povere gambe, dato che l'appartamento, come sapete, è piuttosto piccolo, i bambini non sono invitati. Eugène Bonnet, decorato al valore. PS, poiché la signora Bonnet è disposta a incaricarsi del rinfresco, la partecipazione alle spese verrà proporzionalmente calcolata in un secondo momento. Grazie. Il signor Bonnet aveva semplicemente firmato di suo pugno il post-scriptum. Le cinque convocazioni erano state infilate nelle cinque buste intestate al comune del 20° distretto, sulle quali la signorina Bouron aveva battuto a macchina i cognomi di cui il signor Bonnet le aveva fornito la lista. Ai Roginski la signorina aveva fatto saltare la N, il che dava Roghischi. Molto abilmente lei aveva però corretto la svista incastrando una N minuscola tra la I e la S, e il patronimico di Stepan, Olga e Zazà aveva assunto un'aria un tantino strozzata al centro. Il signor Bonnet aveva incollato le buste, aveva apposto sul retro il timbro servizio del catasto e, arrivato al numero 58 di Rue de la Mare, le aveva consegnate alla signora Lutz pregandola di portare le missive agli inquilini. L'arrivo delle buste grigie blasonate e timbrate li aveva lasciati perplessi e vagamente inquieti prima dell'apertura, ma in compenso la lettura dell'invito era piaciuta molto ai Löwenthal, a Isidor Barschi, ai Roginski e ai Gutmann, che già alle 18:55 si erano radunati dagli stern del primo piano a destra per fare insieme il loro ingresso in casa Bonnet, di cui avrebbero varcato la soglia per la prima volta. Il signor Bonnet aprì e, poiché non ci teneva a dilungarsi in parole di benvenuto troppo familiari, li investì con un sonoro buonasera. Li contò rapidamente con lo sguardo e dichiarò: perfetto, visto che siamo al completo, vado a prendere la regina della festa. E si precipitò giù per le scale. Spettò la signora Bonnet farli entrare con un gesto benevolo, accompagnato da un "da questa parte, signori", rivolto a tutti e a nessuno. I nove occupanti dello stabile entrarono in fila indiana tra un sussurrio di vaghi saluti, grazie molto gentile, che si smorzò spontaneamente per dar luogo a un tragico silenzio. Lo ruppe la signora Löwenthal, facendo notare che il locale aveva l'aria più grande della sua stanza da pranzo. Tutti quanti si buttarono sull'occasione così giudiziosamente offerta dalla signora Löwenthal per esprimere il loro accordo. La signora Bonnet fornì allora la spiegazione. In previsione della piccola folla, il signor Bonnet aveva trasferito le sedie in camera dei bambini e spinto la tavola, di solito al centro della stanza, davanti al caminetto, per dare a lei la possibilità di disporvi i rinfreschi. Si scusò di non poterli far sedere e, additando un enorme canapè con due cuscini, raffiguranti un Pierrot e una Pierrette con il collaretto di raso nero, in cui Isidor Barschi, da esperto di rigatteria, individuò a prima vista un divano letto a due posti, soggiunse sorridendo: I cuscini spetteranno solo alla nostra brava signora Lutz. Noblesse oblige. Gli occupanti risero educatamente e il silenzio tornò a regnare. Sonia e Olga avevano perso qualche parola, ma avevano capito che dai Bonet i bambini avevano la loro camera personale, cosa che le aveva turbate. La signora Bonet ruppe a sua volta il silenzio. Spero che il mio piccolo, anzi il nostro piccolo rinfresco, sia di vostro gradimento, signori. Il signor Bonnet teneva molto alla quiche Lorraine. Io non mi sono arrischiata a farla e così l'ho ordinata al Blé d'Or des Campères, disse prodigandosi in sorrisi. Tutti convennero che le Blé d'Or des Campères era un eccellente rosticciere, pasticciere, panettiere, ivi compresi gli Stern, che avendo adocchiato dei pezzetti di prosciutto visibili sotto le bolle brune e dorate della sottile crosta lorenese, avevano già deciso di non toccarla. Questo come salato, riprese la signora Bonnet. Come dolce, invece, sempre del Blé d'Or des Campères, abbiamo biscotti bretoni, un po' di paste ripiene e dei bignè al cioccolato e al caffè. Non conoscendo i vostri gusti, ho fatto un misto. Nei suoi commenti c'era una tale munifica benevolenza che tutti stavano per dire grazie, è troppo, è davvero troppo, quando si ricordarono a tempo che erano invitanti, non meno che invitati. Si limitarono, o meglio, Elia Gutmann si limitò a rallegrarsi con lei per la scelta e a ringraziarla per il disturbo che si era presa. Oh, di niente, rispose lei, aggiungendo che tutti quei preparativi le erano comunque costati qualche ora di lavoro, ma che dopo tutto era perfettamente normale quando si è nati nel quartiere come me e il signor Bonnet. E proseguì indicando le due bottiglie di champagne Julien d'Amois e le tre bottiglie di sidro di Normandia, tra le quali c'era un mazzo di fiori di campo artisticamente scelti per comporre un bell'insieme bianco, rosso e blu. A quel punto fece il suo ingresso il signor Bonnet, spingendosi davanti una signora Lutz sbigottita e ansimante. La signora Bonnet dette il segnale degli applausi, poi d'autorità. Fece sedere la signora Lutz sul divano letto e la vecchia lorenese, incastrata tra i due cuscini, si sciolse in lacrime singhiozzando: «Mein Gott! Mein Gott! Mio Dio! Mio Dio!» La signora Lutz, cattolica e nativa di un paese che si chiamava Kirchenberg, per 40 anni aveva fatto grossi sforzi per impadronirsi della lingua francese, ma nei momenti di emozione il suo dialetto germanico riprendeva il sopravvento. Nel corso degli anni ne aveva fatto raramente uso davanti ai Bonnet, ma se n'era servita molto con gli altri. Dopotutto il suo dialetto di cristiana non era poi tanto diverso dal loro dialetto di ebrei. Singhiozzati in portineria o ai vari piani, i suoi Mein Gott avrebbero suscitato ondate di tenerezza in Yiddish, ma lì dai Bonnet furono seguiti solo da qualche sospiro a bocca chiusa, accompagnati da lenti tentennamenti del capo. E fu il signor Bonnet a prendere la parola per leggere il suo discorsetto, che si concludeva appunto con lo storico riferimento al ritorno della signora Lutz nel piccolo villaggio, tornato felicemente a essere francese. La frase fu pronunciata con un movimento circolare del capo, il quale stava a significare che si era rivolta a tutti e a nessuno più che alla brava lorenese, e si concluse con un breve attacco di tosse destinato a ricordare il personale contributo del signor Bonnet alla riannessione di Kirchenberg. Il leggero attacco, così familiare agli orecchi degli occupanti della casa, non durò che un istante, e il signor Bonnet concluse con la bella immagine di una signora Lutz circondata dal calore dei suoi. E quando ascolterà la campanella della piccola chiesa di Kirchambert, detto alla francese, non dimentichi questi suoi amici che alla stessa ora sentono suonare il campanone di Notre-Dame. Tocco suggestivo, da cui, tenuto conto delle distanze, l'uditorio si lasciò trasportare. Per abbreviare i primi scrosci di applausi, il signor Bonnet fece saltare il tappo delle due bottiglie di champagne Julien d'Amois. 20 minuti dopo, la cerimonia era terminata. Rimaneva una mezza bottiglia di sidro di Normandia, qualche resto di quiche Lorraine, tre paste ripiene, di cui due al caffè e due bignè al cioccolato. Mentre tutti si dirigevano verso le scale in un amabile brusio di ringraziamenti, la signora Bonnet raggiunse Sonia, che era l'ultima a varcare la soglia, e le tese il vassoio di cartone su cui era stata confezionata la piramide di carta del Blé d'Or de Quimper. Sopra c'era un assortimento di paste ripiene e di bignè con la crema che colava un po' sulla glassa della pasta. «Il dolce per i bambini», disse, «l'ho diviso tra i vostri e i nostri». Per i nostri conticini ho conservato le fatture e si vedrà domani. L'indomani tutto si svolse molto in fretta. Alle 8 Isidor Barschi e la signora Löwenthal scesero in portineria. Già vestita, pronta, con una sporta di tela cerata sulle ginocchia, la signora Lutz se ne stava in attesa, seduta su una sedia, accanto al suo bauletto di finta pelle, cerchiato di legno che Stepan e Lia avevano rinforzato con una grossa corda la sera prima, dopo la festa dai Bonnet. La signora Lutz aspettava, con gli occhi fissi sul parquet pulitissimo, perché aveva tenuto a candeggiarlo ancora una volta, come aveva fatto tutte le mattine da 40 anni. Alle 8:05 il taxi di Andrei Gromov si era fermato davanti al numero 58 di Rue de la Mar. Il principe Andrei Alexievich si era impadronito di uno dei manici di cuoio fulvo, mentre Isidor Barschi afferrava l'altro. In due avevano fissato il baule sul tetto del taxi. La signora Löwenthal prese il braccio della signora Lutz, che senza uno sguardo per il suo buffet, per le sue quattro sedie, il letto e le pareti, uscì dalla portineria. Le due donne salirono dietro nel taxi mentre alle finestre del secondo e del primo piano Sonia, Olga, la signora Bonnet e la signora Stern salutavano ciascuna a suo modo. Alle 8:30 il signor Nussbaum e Manolo, suo socio al mercato delle pulci di Clignancourt, vennero con un carro a mano a caricare il mobilio della signora Lutz che il signor Barschi aveva consigliato di ricomprarle. Alle 9:10 una squadra composta di due imbianchini e un idraulico, mandata dalla provvidenza urbana, dava inizio ai lavori cantando O Sole Mio. Alle 9:47 alla Gare de l'Est si metteva in moto il treno che portava la signora Lutz a finire i suoi anni, se non le sue settimane, all'ombra del campanile di Kirchenberg, dove più nessuno la conosceva. Sul marciapiede, Isidor Barschi, la signora Löwenthal e Andrei Alexievich Gromov sventolavano i fazzoletti. Se avevano le lacrime agli occhi, era perché avevano voluto bene alla signora Lutz, ma anche perché anni prima c'era stato un treno che aveva portato anche loro, gli uni dopo gli altri, e per ragioni diverse, sotto le immense vetrate della grande Gare de l'Est a Parigi, Francia. Alle 10:15, quando Gromov e Barschi depositarono la signora Löwenthal in Rue de la Mar, si sentiva cantare Santa Lucia e c'erano già grandi brandelli di carta da parati, color bronzo, disseminati sul parquet candeggiato. Tutti e due si diressero allora verso una destinazione che, sebbene sconosciuta alla maggior parte della gente, non era pertanto meno leggendaria nel quartiere, l'ippodromo di Vincennes. Alle 18:30, le due stanze con cucina della portineria erano intonacate. L'indomani, domenica, alle 7 del pomeriggio, la squadra lampo della provvidenza urbana, presumibilmente gratificata a dovere, aveva finito di ritappezzare il tutto con una carta prettata color bianco sporco. In cucina, intorno all'acquaio di pietra bionda e levigata, cinque piastrelle di ceramica, nuove fiammanti, erano state incastrate in mezzo a quelle vecchie. Rappresentavano delle barche blu su fondo bianco e facevano a pugni con i mulini color malva su sfondo avorio, che erano esattamente tutto quello che rimaneva del passaggio della signora Lutz nella capitale. Zazà, Maurice, i gemelli Bonnet, Ginot e Sami Nussbaum, Coco e Lulu Novak, Miriam Goldberg e soprattutto Bruno e Gino Benedetti di Rue de Pirenne avevano seguito i progressi di quella metamorfosi maratona compiuta in 48 ore dalla favolosa squadra transalpina che aveva sopportato col sorriso sulle labbra le loro incessanti intrusioni. Quando fu tutto finito, si vide comparire la lunga sagoma nera di colui che a torto Rue de la Mar chiamava il proprietario. Aristide Cloutier non era che un modesto impiegato della provvidenza urbana, la quale ne contava 250. Ispezionò le stanze, sembrò profondamente soddisfatto, tirò fuori dalla borsa a soffietto una bottiglia di vino rosso e quattro bicchieri da senape e brindò democraticamente con gli operai. Con un gesto disperse i bambini ammucchiati nel vano delle finestre aperte, non prima però di aver detto «Domani incontrerete qui due nuovi amici, un bambino e una bambina». Se i ragazzini di Rue de la Mare avevano in comune i loro giochi, le cacce al tesoro, le tiritere effimere, i cortili della ricreazione, lo stesso padrone di casa e, a parte i gemelli Bonnet dei genitori con l'accento straniero, delle cucine da cui esalavano gli stessi vapori, lo stesso dottor Kaufmann e, con i gemelli Bonnet di nuovo inclusi, lo stesso signor Florian, lo straordinario signor Florian che non inciampava ogni nome straniero e che nella memoria di tutti loro sarebbe rimasto per sempre il loro insostituibile primo maestro, era però con Zazà e unicamente con Zazà che Maurice aveva condiviso fino a quel momento ciò che gli adulti chiamano la vita interiore. I terrori notturni raccontati la mattina, i primi stupori davanti alla nascita, alla morte, al sesso, i fiori e le stagioni e la luna e la neve, il denaro e la grossa bolla di sapone che scoppia subito, mentre quella dopo, tutta striminzita, se ne vola via dalla finestra che è sicuramente andata a raggiungere il grosso pallone rosso a cui si è dato il volo l'altro giorno alle Buttes, tanto per vedere, e tutti i perché. Perché noi non abbiamo una nonna come Miriam Goldberg e perché il signore e la signora Stern non fanno neanche da mangiare il sabato. E che cos'è il catè? E perché il rabbino non viene a casa nostra? E che cos'è un rabbino? E perché ha un pancione la sorella grande dei Novak? Tutte queste constatazioni, tutti questi interrogativi personali, tutte queste domande rivolte agli adulti, le loro risposte e le loro non risposte, le loro omissioni e i loro perché sì, Maurice li aveva condivisi con Zazà, come aveva condiviso la pertosse, la carrozzina e le fasce. E anche se era capitato che lei tradisse dei segreti condivisi, era stato con lei, nonostante tutto, che aveva cercato, prima di tutto, di condividerli. A 7 anni quasi compiuti, Maurice era un figlio unico che aveva una sorellina di 5 anni e degli amici della sua età, e lui solo intese a dovere la magica frase di Aristide Cloutier. Domani, in una piccola reggia bagliante di candore, sarebbero comparsi una bambina e un bambino venuti a incontrare un amico. La famiglia Clément fece il suo ingresso a Parigi dalla Gare de Lyon la mattina di buon'ora. Erano savoiardi. Ginette, casalinga, aveva 27 anni. Félix Clément, postino, ne aveva 28. E la sua nomina nel 20° distretto rappresentava una bella promozione. Robert aveva quasi 8 anni e Josette ne aveva 6. Quando scesero dal treno, Aristide Cloutier, che li aveva subito identificati tra la folla dei viaggiatori grazie alla scheda segnaletica che aveva accompagnato le trattative di assunzione da parte della provvidenza urbana, fu felice di constatare che erano tutti e quattro ben piantati, abbronzati, riservati e sorridenti. E anche organizzati. Niente fagottini, niente valigie, ma degli zaini. I mobili erano stati spediti da 48 ore e sarebbero stati consegnati nelle prime ore del mattino. Aristide Cloutier impartì loro la prima lezione di metrò e alle 7:30 facevano il loro ingresso nell'alloggio. Da allora in poi il signor Cloutier avrebbe dovuto chiamare così la portineria, visto che Félix era postino e non portinaio. Ciò nonostante, cominciò a enumerare la lista delle loro incombenze di portinai, ma Félix lo interruppe per completarla da solo. Sapeva esattamente quello che avrebbe dovuto fare Ginette, quello che avrebbe fatto lui fuori dalle sue ore di lavoro alla posta, e sapeva altresì benissimo a quali obblighi l'uno e l'altra non fossero tenuti. Aveva l'aria di aver studiato con cura il problema, di aver soppesato il pro e il contro prima di accettare quell'offerta, che aveva soprattutto il vantaggio di fornire loro un alloggio a Parigi senza dover sborsare un soldo. Sorrideva, aveva un'elocuzione lenta e un accento da montanaro. Anche Ginette sorrideva e non diceva niente. I bambini sorridevano e guardavano il padre. Il signor Cloutier credette di capire che il colloquio era terminato quando vide Ginette sciogliere il cordone dello zaino e tirarne fuori senza stare a cercarlo, un thermos che andò a posare sull'acquaio di cucina dicendo «Venite, bambini!». Il signor Cloutier aprì allora la borsa a soffietto e ne tirò fuori una pratica verde su cui c'era scritto a grossi caratteri neri la Mar Stabile numero 58. Esibì un foglio intestato alla provvidenza urbana, dove erano elencati i nomi degli inquilini, seguiti dal numero del piano e la loro disposizione sul pianerottolo. Lo tese a Felix, che cominciò a leggerlo, un tentativo di far notare come fosse difficile decifrare l'ortografia di certi nomi fu interrotto ancora una volta da un sorridente Felix. «Sono un postino, signore, ho l'abitudine ai cognomi». «Beh, allora vi lascio», disse il signor Cloutier. «D'accordo», disse Felix aprendo la porta vetri. Aristide Cloutier, un po' frustrato per non aver potuto fare sfoggio del suo abituale paternalismo, di solito così bene accetto, dichiarò ai quattro savoiardi che mettevano piede a Parigi per la prima volta: «Alla settimana prossima passerò a vedere come ve la cavate». E se ne andò. Ginette aprì tutte le finestre, c'era proprio odore di vernice. Il loro arrivo era stato così discreto, lo scarico e la sistemazione dei mobili e delle due grosse casse di biancheria e di stoviglie talmente rapidi, silenziosi e confusi con i rumori familiari delle prime ore del mattino, che nessuno ai diversi piani si era reso veramente conto della nuova presenza dei Clément nella casa. Elia, Stepan, il signor Löwenthal e il signor Stern già alle 7 se n'erano andati a lavorare come tutte le mattine. Come tutte le mattine, Barschi dormiva ancora. Le signore Stern e Löwenthal erano intente alle loro faccende. La signora Bonnet dava la colazione ai gemelli. Sonia dava la colazione a Maurice e Olga a Zazà, senza incitarli a far presto perché erano le vacanze di Pasqua. Fu quindi il signor Bonnet che invece usciva tutte le mattine alle 8:30, in quanto per i suoi bronchi si era imposta la regola di andare a piedi con ogni stagione da Rue des Pyrénées fino a Place Gambetta, a bussare per primo ai vetri della porta e a dare l'avvio alle nuove mansioni di Ginette Clément. Bussò, socchiuse la porta e contemporaneamente dichiarò: «Bonnet, primo piano a sinistra, buongiorno, abbia la cortesia di consegnare questi plichi agli interessati. Buona giornata». Felix era già andato a presentarsi ai suoi capi, Ginette era in mezzo alle due casse aperte, ebbe appena il tempo di intravedere il signor Bonnet che questi aveva già richiuso la porta e lei si ritrovò con le cinque buste in mano. Erano azzurre e portavano scritti con l'inchiostro violetto i nomi della lista che il signor Cloutier aveva lasciato a Felix e che questi aveva appuntato accanto alla porta. Robert fu incaricato di portare le lettere ai tre piani che lei non aveva ancora avuto il coraggio di affrontare. Robert prese la sorellina Josette per mano e tutti e due salirono a bussare alle porte di quegli sconosciuti ai quali portavano l'ammontare delle quote di partecipazione di ciascuno alle spese per la cerimonia di addio alla signora Lutz, scrupolosamente calcolate al centesimo con copia delle fatture del Blé d'Or de Quimper e della ditta Julien Damois. Dai Goodman fu Maurice ad aprire. Alle 10 Josette faceva da terza a campana con Zazà e Miriam Goldberg. Robert giocava a palla prigioniera sul terreno abbandonato che ora si stendeva al posto della casa definitivamente demolita al numero 10 della Rue Henri Chevreau. E sopra il grande muro cieco della casa confinante era dipinto un ritratto gigante del dottor Pierre, illustre creatore di pasta dentifricia. Robert ebbe la sua prima lezione di pubblicità. A mezzogiorno, bianche tendine inamidate e lavorate a uncinetto ornavano le tre finestre e la porta a vetri della portineria. La neve, la legna fine da ardere, due nonni e due nonne, uno zio Charles, delle zie Marie, Germaine, Louise, cugini e cugine, rifugi che odorano di legno di pino, caminetti riempiti di grossi ciocchi, un postino che fa il giro con gli sci, la sciolina, la marmellata di more, certi inglesi caduti in un crepaccio, le uova bevute crude, un lupo abbattuto un giorno dagli uomini del paese, il ruscello gelato che si attraversa a piedi, la valanga dell'anno scorso, la torcia a vento, il latte cagliato, i pranzi di nozze, i campeggiatori tedeschi che fanno il bagno nudi, i calzini lavorati a maglia dalla bisnonna, i preti tra virgolette, per scaldare il letto, l'enorme pagnotta per tutta la settimana, la neve che gela, i ramponi sotto gli zoccoli, la bufera di neve, l'erba che rispunta, le mucche e le pecore, la pelle di pecora sotto la mantellina, la stufa di maiolica in classe, la posta nel comune e la casa con la posta, e anche la scuola nel comune, ma dall'altro lato della posta, e la classe dove si era solo in 9. Robert Clément, per Maurice che cominciava a leggere i libri che gli prestava il signor Florian, era insieme Jack London e Charles Nodier, che entravano nella sua casa e nella sua vita. Ascoltava la voce cantante e l'accento nuovo e le parole sconosciute, quei preti che non erano i parroci, quella terra che si spaccava, ma non come le mani per i geloni, quella sciolina per ingrassare gli sci, che non era come la crema di bellezza con cui si ungeva la pelle la sorella di Novak. Ascoltava, dal momento che lui non aveva niente da raccontare. Tutto quello che avrebbe avuto da raccontare era lì, sul posto, tra la Rue des Pyrénées e la Rue Henri Chevreau, e nei tre piani di casa. Maurice non lasciava più Robert, che si stupiva dei suoi stupori, e ancor più si stupiva di essere quello che insegna in quella grande città che gli aveva fatto tanta paura finché non era entrato nella squadra di palla prigioniera 3 ore dopo il suo arrivo a Parigi. Per le bambine era il contrario. Ci vuole l'asfalto per disegnare con il gesso il cielo e l'inferno di un gioco a campana. All'inizio del gioco, Zazà aveva requisito Josette e quasi simultaneamente ripudiato Miriam Goldberg. Che questa fosse in disgrazia fu chiaro all'inizio del pomeriggio, quando Zazà invitò la sola Josette a veder lavorare le nostre mamme, buttando lì distrattamente a Miriam Goldberg: «Tu sei già venuta e saremo in troppe». Allora la piccola Montanara scoprì l'universo delle porte aperte sul pianerottolo del secondo piano, Olga e Sonia riunite nella stanza da pranzo Roginski, le spagnolette di tutti i colori e le leggere cascate di rasatello grigio e blu delle fodere dei cappotti per donna e bambina. La grande pezza di cotone nero in cui si ammonticchiavano già ben piegati 6 paltoncini per bambina blu scuro con i bottoni dorati, con il caldo che faceva fuori, mentre quelli che erano da finire giacevano alla rinfusa ai piedi di Olga e di Sonia, che si dividevano a turno bottoni e orli. Le mamme avevano accenti come lei non aveva mai sentito, e Olga le regalò un occhio di volpe scompagnato che tirò fuori da una scatola di liquirizia. Florin, dove conservava, tra gli spilli con la capocchia nera, un ritaglio di tulle bianche e un dente da latte di Zazà. Per i genitori Clément le cose non furono altrettanto rapide. Félix imparava le vie e assicurava il servizio in un'altra zona del distretto. Ginette, che si era immaginata chissà che in mezzo a tutti quei parigini di vecchia data, li trovò gentilissimi e perfettamente comprensivi nei confronti di una forestiera. All'inizio, ben inteso, cadde sotto il giogo della signora Löwenthal, che non ebbe pace finché non le fece prendere il posto di Sonia e di Olga. Ginette lo prese, ma in senso contrario ai voti dell'economia a riposo. Tenne conto di raccomandazioni e ukase che la signora Löwenthal distribuiva pro o contro i commercianti che le indicò nel corso di un viaggio iniziatico per le vie della Mar e de Pirenè. Periplo che fecero il giorno subito dopo l'arrivo dei Clément, e durante il quale sarà interessante notare che Le Blé d'Or de Quimper venne denunciato come negozio di ladri. Molto rapidamente, peraltro, Ginette fece da sola le proprie scelte, dopodiché anche lei affidò a Robert delle piccole liste che, se lui non doveva tradurre, come Maurice traduceva quelle di Sonia e Olga, portavano però i due ragazzini a fare le stesse compere, con paprika, cumino e cetriolini Malasol in meno per Robert. Presero presto l'abitudine di lasciare le bambine, era proprio la prima volta che capitava, anche alle bambine, del resto. La mattina del 26 maggio 1926, ma la data esatta la verificarono solo molti anni dopo, Maurice e Robert se ne andavano a fare la spesa. Passando davanti all'Alverniat, parve a Maurice che dentro ci fosse molta agitazione intorno a Barschi. Ma Barschi al caffè a quell'ora non era niente di meno che normale. In compenso, all'angolo di Rue des Cascades, i signori Nussbaum, Goldberg e Katz stavano discutendo gravemente, e questo era del tutto anormale. Alle 10 del mattino di solito quelli lì lavoravano. Solo con Zazà Maurice si sarebbe fatto avanti per ascoltare la conversazione in Yiddish, ma con Robert non osò e seguitarono a risalire la via. Mentre arrivavano alla Rue des Pyrénées, sentirono una voce che scandiva parole che in un primo momento non riuscirono a capire, salvo una specie di ritornello ripetuto continuamente: «Comprate le matin! Comprate le matin!» Avvicinandosi all'ingresso del metrò sentirono il resto. «Assassinio politico in piena Parigi! Comprate le matin! Regolamento di conti tra stranieri! Comprate le matin! Un rosso bianco assassinato a Parigi! Comprate le matin! Un esaltato si vendica! Comprate le matin!» Lo strillone era roco e sopraffatto. C'erano dei pacchi di giornali ancora legati, posati sul marciapiede, e una carta sgualcita di un azzurro sporco nascondeva i titoli di prima pagina. Davanti a lui, su un seggiolino pieghevole, c'era una pila di giornali sciolti che diminuiva a vista d'occhio. Con una mano che tuffava nella borsa a tracolla, lo strillone incassava le monete. Con l'altra mano si teneva stretto contro il petto l'esemplare su cui compariva a grossi caratteri la notizia del giorno. Maurice smise di sentire i rumori della strada, il tintinnio delle monete, lo sbraitare dello strillone. In un silenzio ovattato, che in quella folla avvolgeva lui solo, decifrò il nome che solo per lui lampeggiava come un pugnale in mezzo al titolo. Ieri sera a Parigi, l'atamano Pietriora assassinato da un compatriota. Quando udì di nuovo i rumori della via, le monete che cadevano, lo sbraitare dello strillone, sentì anche la voce di Robert che chiedeva: «Che cos'hai?» Ma non rispose. Non rispose, perché quello che gli turbinava in testa era indicibile, incomunicabile a chi che sia, era un miscuglio di nozioni così diverse che era incapace di selezionarle per ordine di importanza, e fu solo molti anni dopo, praticamente il giorno in cui lui e Robert cercarono la data esatta dell'esecuzione di Pietriora per mano di Samuel Schwarzbard, che poté infine raccontare al suo amico, con il distacco della memoria e parole da uomo, quell'attimo che avevano vissuto insieme e separati come non mai. Se lo ricordava talmente bene che arrivò al punto di dire a Robert: «Quando mi hai chiesto che cosa avessi, per poco non ti ho risposto, io lo conosco». Ed era vero. E forse in un primo momento era stato proprio quello lo shock che aveva provato nel leggere il nome proibito e censurato da Sonia. In quel «io lo conosco» ringoiato, sostituito dal silenzio, c'era qualcosa come la fierezza di essere implicato personalmente in un fatto di cronaca nera, per la sola ragione che lui conosceva il nome della vittima ancora prima che diventasse celebre di colpo e per tutti quanti. Contemporaneamente c'era stata la scoperta dell'I mancante, da Piet Lura a Piet Liura. L'incongruità dell'invenzione di Puepué doveva colpirlo solo in seguito. Ma la sensazione dominante in quel caos di impressioni era che sua madre aveva mentito, Pietrora esisteva, prova ne sia che l'avevano ammazzato. Quella mattina non rispose a Robert, andarono a fare la spesa e non comprò il giornale. Dai Gutmann e dai Roginski, a volte e a turno, erano Elia e Stepan che portavano un quotidiano a casa la sera tornando dal lavoro. Davanti a casa, disse Robert, che tornava subito e salì con la sporta fino al secondo piano. Lungo tutta la via aveva rimuginato una frase a effetto per Sonia che fosse incisiva e insieme creasse sensi di colpa. Non l'aveva trovata. Esitava tra lo stile «sciagurata, sei perduta, so tutto» che aveva visto sotto un'illustrazione con una donna in lacrime davanti a un uomo che brandiva una lettera, e quello più sobrio di «il Papa è morto» che il signor Florian aveva letto prima delle vacanze di Natale. Quando entrò in cucina, Sonia stava passando lo straccio sul pavimento, era in ginocchio e di schiena. Ebbe il tempo di dire: «C'è Pietro che...» Al che un colpo di straccio umido e attorcigliato gli sferzò i polpacci, all'altezza giusta, per Sonia, che si era voltata furente nel sentirlo pronunciare il nome proibito, senza dargli il tempo di spiegarsi. A quel punto un vocione familiare si fece sentire sul pianerottolo. Maurice uscì di corsa dalla cucina e si scapiccolò giù per le scale. Davanti alla finestra della portineria, Robert stava guardando le bambine che saltavano alla corda. Josette e Miriam Goldberg, rientrata di nuovo nelle grazie, reggevano i due manici mentre al centro Zazà accelerava il ritmo dei salti.